Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che ha proprio nel suo titolo l'economia, ma è l'altra metà dell'economia. Gli autori sono Luigino Bruni e Alessandra Smerilli, che abbiamo con noi questa sera. Buonasera, professor Bruni. Buonasera. Professor Bruni è professore ordinario di economia politica presso la LUMSA e Alessandra Smerilli. Buonasera. Buonasera. Alessandra Smerilli, professore aggiunto presso la Pontificia Facoltà di Scienza dell'Economia Auxilium di Roma e collabora con l'Università Cattolica. Allora, Alessandra Smerilli, cos'è l'altra metà dell'economia? È un titolo enigmatico, impegnativo. Dice che ci sono due metà. Una pensiamo sia abbastanza conosciuta, l'economia che normalmente conosciamo. L'altra metà, quella un po' nascosta, è l'economia più legata ai carismi, alla gratuità. E in questo libro abbiamo cercato di far vedere anche che la dimensione dei carismi, che poi definiremo, è anche molto legata al femminile. Quindi nell'altra metà ci sono i carismi, la gratuità e il femminile. È il femminile che nel mondo appunto dell'economia e del lavoro soprattutto è ancora, diciamo così, in secondo piano. Quindi c'è bisogno forse di rivalutare anche una presenza femminile con tutte le sue doti e con tutte anche le sue diversità, in fondo. Esattamente. In un'ottica secondo la quale lavorare insieme dà un valore aggiunto. Ci sono studi recenti su come un management dove riescono a collaborare bene insieme uomini e donne dà un valore aggiunto all'impresa. Perché ci sono caratteristiche femminili che aiutano soprattutto nel campo delle risorse umane, nel valorizzare le persone, nell'ambito relazionale e così via. Ci sono cose che uomini e donne sanno far bene allo stesso modo, ci sono cose che riescono meglio agli uomini e quindi ci stiamo perdendo metà forse dell'economia e dello sviluppo senza questa valorizzazione. Ecco, si parla di carismi, appunto, lei ha detto fin dall'inizio, parliamo di questi carismi che sono un po' le capacità, gli skill attuali, cioè o è qualcosa di più? È un qualcosa di più, direi, e anche di diverso. Noi con la parola carisma, che abbiamo analizzato sempre con Luigino Bruni in un libro precedente intitolato Benedetta Economia, intendiamo che cosa? Intendiamo innanzitutto un dono, e l'origine della parola è anche questa, ma un dono di che? Un dono di occhi. Occhi nuovi e diversi che sanno vedere cose belle dove gli altri vedono problemi, che sanno vedere risorse dove altri vedono solo problemi e quindi innovano. Sono una forza di innovazione nella storia. Normalmente c'è la grande tradizione della Chiesa Cattolica che parla dei carismi e carismi quindi religiosi, ma c'è anche Weber che affronta il tema dei carismi, c'è l'economista Schumpeter. In questo libro cerchiamo di fare una sintesi di tutto quello che è stato detto e studiato sui carismi e cerchiamo di dire perché questi carismi possono essere importanti per l'innovazione economica. Non sono solo legati al leader, a volte si parla di figura come carismatica prendendo spunto, certo, da Weber come il leader. Noi pensiamo che il carisma sia incarnato non in una sola persona, ma può essere di tante persone che insieme danno vita a qualcosa di nuovo e sono tanto legati alla parola gratuità, alle motivazioni intrinseche, a quello che viene dal di dentro. Ecco, un'economia della gratuità, professor Luigino Bruni, ma un'economia della gratuità è ancora un'economia? Se la intendiamo come gratuità e non come gratis. Uno dei grandi equivoci dell'attuale mondo economico è interpretare gratuità come prezzo zero. Quello che noi diciamo nel nostro libro, fondando su autori seri e sulla vita della gente, che gratuità è un prezzo infinito, è impagabile, non che vale niente. Anzi, c'è addirittura un primato della gratuità. C'è un primato, perché la gratuità fonda il contratto. Anche se noi guardiamo le civiltà, qui sono molto bravi gli antropologi, i contratti nascono da doni. Quando si incontravano le civiltà antiche, il primo incontro era un incontro di doni rituali per costruire un rapporto su cui nascevano i contratti. Oggi abbiamo talmente sfibrato i contratti dal punto di vista relazionale che continuiamo a scrivere clausole di sfiducia, riempiamo di carte, diciamo di note scritte i contratti assicurativi bancari, perché in realtà non ci fidiamo gli uni degli altri, perché manca una dimensione più fondativa che si chiama appunto gratuità, che è un incontro che ha in sé la sua motivazione. Cioè noi oggi soffriamo per persone che si incontrano troppo poco per l'incontro e basta, e non per altro. Cioè bisogna ricostruire anche la fiducia nelle persone. Nei bar di paese c'è quella una frase che per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. E quindi perché qualcuno si è comportato male, allora abbiamo un'economia basata un po' sulla sfiducia, basata un po' sul sospetto, basata sulla difesa degli interessi. Sì, basta pensare a quel proverbio pessimo, tipicamente italiano, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. No? Che vuol dire che esprime molto un'antropologia, un umanesimo tutto da riconsiderare. Ecco, in questa prospettiva, Alessandra Sberilli, allora rivalutare la persona, riscoprire questo dono della gratuità, ma poi bisogna pur vivere. Quindi anche in questa prospettiva si può richiamarsi forse alla parola dei talenti, a dire che dobbiamo usare quello che abbiamo, anche se uno ha dei talenti, uno ne ha due, uno ne ha uno, uno ne ha quattro, quindi con una certa diversità che fin dal Vangelo in fondo è un valore. Esattamente, e nel libro cerchiamo a un certo punto di parlare anche di quelli che sono gli strumenti di organizzazioni che nascono da un movente ideale, organizzazioni che abbiamo chiamato carismatiche e che sono strumenti che fanno venire fuori il meglio dalle persone, e questo si traduce, come dicevo prima, in innovazione e quindi anche in maggiore produttività nelle organizzazioni. Quando si sta bene al lavoro, quando si è valorizzati, si dà il meglio di sé. E tra questi strumenti del principio carismatico, delle organizzazioni che nascono da un carisma, ne abbiamo messi alcuni come la festa, il senso e il valore della festa al lavoro, ma anche per esempio lo strumento del colloquio, che ha origine nelle grandi tradizioni, per esempio monastiche, della vita religiosa, in cui la comunità è tenuta bene insieme anche perché ognuno ha un momento di confronto personale nelle comunità con il superiore, con la persona incaricata. E ci siamo chiesti perché questo non può avvenire nei luoghi di lavoro, perché non prevedere dei momenti istituzionali in cui ciascun dipendente possa avere un momento di confronto personale con il proprio capo e in questo modo avere quel luogo in cui poter dire cosa funziona, cosa non funziona e così via. Quindi non solo produzione, non solo intervento diretto, ma anche capacità magari appunto di essere più efficaci, di avere una maggiore capacità di svolgere alcune funzioni in un confronto con gli altri, in un confronto aperto in cui non ci sono solo delle regole, ma c'è anche invenzione, c'è anche capacità di intuizione, capacità di superare un po' le formule tradizionali, le procedure, in fondo. Esattamente, non vuol dire che non ci debbano essere queste formule tradizionali, ma a volte le organizzazioni vengono anche bloccate dalle troppe procedure. E l'altro strumento che noi abbiamo inserito come strumento tipico di queste organizzazioni è quello del premio, che è diverso dall'incentivo. Oggi nelle organizzazioni sono piene di incentivi. Il premio è un qualcosa di diverso, parte innanzitutto da un'antropologia diversa, e cioè si basa sul fatto che si considera, com'è nelle organizzazioni carismatiche, che le persone sono un grande dono e vogliono dare, non sono scansafatiche. Gli incentivi molte volte nascono dal voler allineare gli obiettivi dei lavoratori che si considerano diversi da quelli dell'organizzazione con quelli dell'organizzazione. Invece ci siamo detti, ma se noi partiamo dall'idea che la persona in sé è creativa, ha voglia di dare, quando comincia un lavoro ha voglia di dare il meglio di sé, lo strumento adatto per riconoscere, non per incentivare, è proprio quello del premio, che viene dopo e non prima, che va a riconoscere un di più che la persona mette nel suo lavoro. È pubblico, è uno strumento pubblico e serve anche a cementare l'organizzazione. Ecco, l'ultimo capitolo, la conclusione del libro è: quali innovazioni salveranno il mondo? È un titolo di un capitolo un po' ambizioso, e questo si capisce che non sono le innovazioni tecnologiche di cui si parla spesso, che sono indubbiamente necessarie, sono certamente utili se usate bene, ma quali sono invece le innovazioni che secondo voi salveranno il mondo, professor Bruni? Noi distinguiamo in questo libro tra innovazioni di crinale e innovazioni di vallata. Le innovazioni di vallata sono quelle dei centri di ricerca, degli uffici dove si innova al margine, si migliora un prodotto, un servizio, e sono fondamentali per l'economia. L'economia vive di questi piccoli miglioramenti, innovazioni, ma l'economia la porta, e il mondo lo porta avanti la grande innovazione di Crinale, chi sale in alto e guarda lontano, e le innovazioni di Crinale sono innovazioni che hanno a che fare con l'eccellenza antropologica, con persone che fanno delle cose non per incentivo ma per vocazione. Se noi oggi non avessimo avuto Gandhi non avremmo avuto innovazioni di vallate in India, che oggi, se non avessimo avuto, ma anche nell'economia, dei cooperatori sociali, degli imprenditori che sono mossi dal di dentro. Cioè, questo libro ha un'idea di fondo, che gli esseri umani sono più grandi degli incentivi, cioè che l'essere umano vuole di più dalla vita, e quindi quando deve fare cose molto alte non puoi incentivarlo con i soldi, devi attivare delle risorse più profonde, sia appunto gratuità, voglia di vivere, entusiasmo, che sono dei doni e quindi non puoi comprarli, puoi solo riceverli se l'altro te li dona. E bisogna però condividerli poi. E qui c'è un po' in conclusione una frase in cui si dice: la Chiesa di Papa Francesco sta creando un ambiente adatto a possibili nuove grandi innovazioni sociali ed economiche di Crinale. Alessandra Smerilli, cosa sta facendo questa Chiesa di Papa Francesco? Questa Chiesa di Papa Francesco penso che stia risvegliando tante energie nelle persone. Il fatto che Papa Francesco parli il linguaggio della gente e comunque sia animato anche da tanto desiderio di collegialità, dice che ci si deve muovere, che si può camminare. Credo che la Chiesa si sia rimessa in cammino e su tanti fronti. Io, come in quanto religiosa, sto anche lavorando per definire alcuni criteri per la gestione dei beni degli istituti religiosi, perché vadano nella linea dello sviluppo e non del trattenere per sé. Anche questo mi sembra molto innovativo. I carismi da sempre sono stati via di innovazione e di sviluppo, devono continuare ad esserlo oggi anche con i loro beni che possono mettere a disposizione o che possono far fruttare, perché l'aiuto alla missione ai poveri sia sempre più efficace. E in questa prospettiva, per concludere, professor Bruni, poi l'economia, diciamo quella classica, quella poi seguirà, poi non può che crescere anche l'economia delle cose. Sì, perché in fondo quello che Schumpeter diceva sempre, diceva in suo lavoro, c'è l'innovazione e c'è l'imitatore. Cioè, i carismi sono gli innovatori, le istituzioni sono gli imitatori, quindi si innova e si imita. Noi crediamo che se oggi noi rilanciamo una stagione di motivazioni intrinseche, di passioni, di ideali, poi l'economia normale verrà dietro, perché il mondo è una rincorsa di carismi e di istituzioni, chi innova e chi imita. Grazie al professor Luigino Bruni, a professoressa suora Alessandra Smerilli di essere stati con noi questa sera. Abbiamo parlato del loro libro L'altra metà dell'economia, gratuità e mercati, edito da Città Nuova. Sono 16 euro per 190 pagine. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per sabato prossimo.